Buongiorno e bentrovati. Oggi abbiamo la fortuna di avere qui con noi un ospite speciale, perché non parliamo come al solito di musica, ma parliamo comunque di arte, in questo caso di arte stilistica, e qui con noi c'è Rita Capuni, stilista. Ciao, bentrovata. Ciao, ciao a tutti. È bellissimo averti qui con noi, perché abbiamo parlato di tutto fino ad ora a microfoni spenti, cioè, ma soprattutto di indipendenza e di libertà, perché comunque tu hai fatto una scelta un po' controcorrente, ossia essere artigiana, non affiliarti a grandi case di moda, anche magari quando ne avresti avuto la possibilità, ma di produrre qualcosa che fosse effettivamente ispirato da te. Sì, certamente, perché ho deciso così nel 2018 di lanciare il mio brand artigianale Made in Italy, comunque indipendente, in quanto, cioè, faccio e gestisco tutto da sola, il che non è una situazione veramente semplice, specialmente in questo periodo, ma credo fermamente in questa ricerca che attuo ogni giorno, perché comunque lavoro con laboratori piccoli artigianali e che comunque, cioè, si parla di moda, slow fashion, insomma di tornare un po' alle origini, un po' al passato, un po' al vecchio abito fatto dal sarto, ecco. Però in quello che fai c'è anche, oltre a, come dire, una filiera controllata dove appunto si conosce chi ci lavora, c'è anche quello che è un'ispirazione che viene da quello che hai letto, da quello che hai studiato, da quello che sei. Sì, io mi ispiro attraverso me stessa, nel senso che racconto me stessa attraverso i miei abiti, come se fossero le mie collezioni dei racconti autobiografici, dei racconti, ecco. Infatti le collezioni hanno un titolo, ne hanno tutto un filo conduttore, in ogni collezione insomma c'è una sorta di crescita, e poi ovviamente mi ispiro a cose che comunque appartengono a me, che mi piacciono, che seguo, che studio, come l'architettura brutalista, la musica, perché comunque io alla fine sono nata nel punk rock, questo esce perché comunque essere punk vuol dire tante cose oltre l'esteticità, e poi ovviamente la ricerca stilistica dei design giapponesi, il black, il nero come colore assoluto, sono varie. Sì, infatti vi vogliamo invitare a dare un'occhiata anche alla pagina Facebook, ricordiamo Rita Capuni, tutto attaccato, il brand, e anche la pagina Instagram, dove appunto regnano il nero, ma anche il bianco, il pietra. Bianco e nero, sì. I colori naturali, ma soprattutto il bianco e il nero, sì. Contrasti, sì, mi piacciono tantissimo. La tua ricerca nasce su questo, ma anche sui tessuti. Sì, i tessuti sono tutti made in Italy, cioè faccio una ricerca di tessuti naturali, quindi cotone, lana, viscosa, seta, cerco di offrire questo. Poi ovviamente in base anche a quello che richiede, insomma, magari che io lavoro con i negozi, che insomma richiedono i negozianti, però comunque tutti tessuti naturali, italiani, ecco, non sintetici. Ma svegliamo, Rita, come mai sei qui a Bologna da queste parti? Sono a Bologna perché si è appena conclusa l'edizione del Black in Bow nello showroom di Giovanna Guglielmi al Center Gross, showroom prima traversa. Ho fatto 3 giorni, ho partecipato a questo evento dove ci sono anche altri designer, altri brand, con la stagione invernale, autunno-inverno 2021-22, che uscirà nei negozi a settembre, diciamo anche prima. E quindi abbiamo fatto questi 3 giorni di fiera, prima di Milano, della Milano Fashion Week. E quindi, al di là della lieve emozione che leggo e che mi fa piacere di riscontrare, perché comunque vuol dire che ci tieni tantissimo, quello che ho visto nei tuoi occhi è anche tanta tanta passione, insomma qualcosa di gettare il cuore oltre l'ostacolo per fare qualcosa di cui si è innamorati, lo testimoniano, lo posso dire, svelare i tatuaggi che porti, anche legati al tuo lavoro. E cosa vorresti dire a magari una persona che ci ascolta e che ha comunque il sogno di diventare stilista? Che è un lavoro molto molto completo, nel senso non è limitante a disegnare o a avere delle idee, cioè la filiera che è lunga, che è difficile, però comunque c'è, cioè, piena di lavoro, ma anche soddisfacente, perché alla fine si vede realizzata una collezione ancora più bello, cioè quando si vede nei negozi, se le persone cercano il tuo prodotto e comunque lo indossano e se lo ricercano ancora, venderlo alla fine, cioè anche soddisfacente, perché comunque quello è la finale di tutta la giostra, anche è la parte commerciale, perché comunque ripeto sempre che io non sono un artista ma un'artigiana, e comunque il mio lavoro alla fine è vendere i capi, perché se no si fa una mostra ed è un altro lavoro. Ma quindi no, apprezziamo sì, esatto. La crescita va anche in quello, capire anche quello che veramente, cioè, le persone vogliono, specialmente in questo periodo difficile, per continuare a stare in piedi. Poi magari quando uno sa che sta già in un certo livello, scegli anche, ovviamente cerchi di fare cose più particolari, però a volte ti devi mantenere, quindi ti capi ancora, sì, meglio il cliente, per riuscire, capito, a stare a galla, perché comunque in particolar modo in questo periodo, infatti, quindi sì. sì, insomma, semplifica, cerca di accontentare un po' più di tagli e di persone, però sì, è un lavoro complicato, insomma, di avere veramente una bella voglia di fare, di volontà assurda. Cioè io poi comunque da sola, nel senso che gestisco tutto da sola e parto dall'idea fino alla parte amministrativa, quindi insomma, cose che non avevo mai fatto. Però insomma io credo che la soddisfazione sia davvero tanta. Noi ti ringraziamo, vogliamo ricordare insomma a tutti coloro che sono in ascolto il tuo sito ritacapuni.com per le creazioni, per le collezioni nuove, per il pronto moda, per il programmato, insomma per tutto quello che è sia l'attività di vendita appunto che dicevi, ma anche per la presentazione ai negozi e, come mi dicevi, anche per il center grosso, insomma con tutte le attività con cui stai lavorando e con cui lavorerai. Ti ringrazio. Grazie per essere stata qui con noi, ti chiediamo se vorrai venire a trovarci la prossima volta che ritorni a Bologna. Certo. E poi grazie ancora e complimenti di nuovo per il tuo lavoro. Grazie, grazie a te, ciao, ciao a tutti.